voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Vito Gulli, Asdomar, quando Ulisse torna a Itaca, di Alessandra Scaglioni. Io personalmente, una domanda proprio particolare, me la sento addosso, lungi da me la pretesa di assomigliare a Ulisse in qualcosa di importante, ma me lo sento vicino per il ritorno a Itaca. Cioè, quelli che mi conoscono e conoscono la nostra storia sanno che siamo stati precursori del ritorno al futuro. L'ho complicata bene, però è proprio così. Abbiamo rilocalizzato e penso che sia questa la cosa che sento più vicino al personaggio di Ulisse, essere tornati a Itaca nel senso di produrre in Italia. La voce che avete ascoltato è quella di Vito Gulli. La storia d'impresa che raccontiamo oggi è quella di Generale Conserve, azienda che produce e commercializza prodotti ittici e principalmente tonno in scatola, e che in poco più di 10 anni ha decuplicato il fatturato, è passata dalla distribuzione alla produzione e ha deciso di produrre in Italia. Il paragone tra Ulisse e l'imprenditore è lo spunto da cui parte questa puntata di Voci d'impresa, realizzato in un incontro al Piccolo Teatro di Milano per il ciclo Ulissi, viaggio nell'Odissee, per provare a capire se e in che cosa gli imprenditori ai nostri giorni possano essere definiti Ulissi contemporanei. Nel caso di Vito Gulli, il viaggio inizia poco più di 10 anni fa, entrando in società in una piccola azienda. All'imprenditore. Io sono un imprenditore atipico, credo, perché sono un imprenditore per caso. Nel senso che ho iniziato tardissimo, ho iniziato a fare l'imprenditore a 50 anni, oggi ne ho 61, 62, non me lo ricordo più perché cerco di rimanere attaccato ai 60. Dopo una vita da manager, marketing, poi commerciale, poi direzione generale di parecchie aziende, ahimè, dicevo allora, e mi sentivo ghettizzato come il manager del tonno. Ho fatto il direttore generale di più aziende di tonno famose in Italia e all'estero, e a un certo punto, ripeto, era una frustrazione per un manager, no? Cioè, ma cavolo, mi cercano sempre tutti quelli del tonno, io sono capace a fare altro, no? E alla fine di una bella esperienza, bella perché drammaticamente bella, cioè dopo aver risollevato un'azienda famosa che versava in cattivissime acque in pochi anni, andandone da quell'azienda, poi invece ho capitalizzato la fortuna di quella che definivo ghettizzazione, perché mi sono venuti a offrire di diventare socio di un'aziendina piccina perciò, come era Asdomar nel 2001. L'azienda distribuisce tonno in scatola con il marchio Asdomar. Nel 2001 ha un fatturato sotto i 20 milioni e 12 dipendenti, ma negli anni successivi viene completamente trasformata, diventando un'azienda di produzione, con un percorso che parte dal Portogallo. L'azienda, quando eravamo in 12 ovviamente, era un'azienda che distribuiva il proprio marchio. E a poco, direi, mi sembra nel 2004-2005, sì, abbiamo comprato la svolta tra, diciamo, da distributore a industriale, abbiamo comprato questo stabilimento, uno dei più grossi, oggi il più grosso, in Portogallo. Allora erano 140, adesso sono 200 persone. Mi piace dire che pur venendo in Italia abbiamo aumentato l'occupazione anche là, ma dove non facciamo più tonno, perché siamo là per una questione, lì sì, logistica, lo sgombro, la sardina, sono questi i prodotti che insieme al salmone ed altre cose facciamo là, devono essere lavorati sul luogo di pesca, quelli sì, perché non possono essere congelati, e quindi l'expertise è là. E poi, come Ulisse torna a Itaca, Vito Gulli decide di portare la gran parte della produzione in Italia. E arriva in Sardegna attraverso un'operazione che ha previsto prima, nel 2008, l'acquisto di alcuni macchinari e impianti per la lavorazione di tonno e successivamente, nel 2010, la costruzione di uno stabilimento nuovo ad Olbia con un investimento di circa 25 milioni di euro e l'impiego di 250 persone. Cuocere, tagliare, cuocere, pulire, selezionare, riselezionare e poi solo alla fine inscatolare un tonno. È una roba che diventa prettamente figlia dell'esperienza, della tradizione culinaria italiana. Lo facciamo in Sardegna, a Olbia. Siamo gli unici tra le grandi aziende a effettuare tutto il processo produttivo qua. Questa è una cosa a cui tengo, è come dire assemblare delle parti di un'auto, cioè scatolare un prodotto o farlo. no, fondere il ferro. E qui arrivano i tonni, sia chiaro, non dalla Sardegna, noi lo diciamo nelle nostre confezioni in modo esplicito, ci attacchiamo dei libretti alle nostre confezioni. Il tonno viene pescato negli oceani, perché dicevo prima, la Apollide come poco. Dopodiché però viene lavorato a mano qui, a mano e con tutto l'ausilio della tecnologia, ci mancherebbe altro. Ma a pulire il pesce, con tutta la ricerca e l'innovazione che uno può voler mettere, sono tante donne con tanti coltelli e con tante mani che a poco lo puliscono fino ad arrivare dove deve essere. Il motivo di questa scelta non è certo il costo del lavoro, che in Italia è 5 volte più alto che in Portogallo e inconfrontabile con i paesi asiatici. E nel nostro mercato, pur facendo parte del cosiddetto agroalimentare, non è come il pomodoro o prodotti analoghi che sono qui, no? Qui c'è il pesce, è l'essere più apolide, più errante biologicamente, no? Perché deve correre e girare i mari. E è un prodotto ad altissimo lavoro intensity, quindi ad altissimo lavoro manodopera, per cui potete immaginare la concorrenza asiatica, africana, centroamericana. La gara è andare là dove mi porta il minor costo del lavoro. Volendo smarronare, mi permetta questo verbo, un po' uso una frase che sembra retorica ma che giuro che è piena di sostanza, non mi crederete più per questa premessa, noi siamo andati alla ricerca di valori alti e non di costi bassi. Sembra una sciocchezza ma giuro che è vera. Intendo dire che certe peculiarità, questo sì, per noi e per tutti, nell'alimentare, cioè in tutto quello che si mette in bocca e ci alimenta, l'italiano non deroga, no, fortunatamente per noi. È chiaro che purtroppo e maledettamente sì, per un'auto che magari muove molto di più l'economia di una nazione, ma per l'alimentazione no, è banale, è inutile spiegare il perché. E quindi tutto quello che è, insomma, io una pasta asciutta non me la faccio fare in Cina. Ma c'è un altro motivo che ha determinato la scelta di realizzare la produzione in Italia. L'altra ragione, quella per me più importante, è che io sono fissato. Per me la produzione italiana, un imprenditore deve capire oggi, o ieri meglio, che solo se produce in Italia avrà futuro. Probabilmente io non sono in grado di determinare i tempi in cui questo avverrà, ma ne sono certo, e cioè a noi non ci salverà nessun politico, nessun genio, ma ci salveranno i consumatori italiani, che io chiamo apposta i consumatori con due T, perché saranno loro i protagonisti della ripresa. Cioè noi capiremo in modo banale che ci dobbiamo aiutare barattandoci lavoro, cioè rifacendo girare l'economia. Attenzione, non sto parlando di nazionalismi o queste cose qua, poco di più, mica tanto, come fanno già i francesi, come fanno i tedeschi, ma cioè, come facevamo noi 40 anni fa, no? Cioè, dico una cosa banalissima, ma che non può più essere ovviamente imposta dalla legge, dazi, cose di questo genere, sono fuori dal mondo, no? È la consapevolezza. Vede, il direttore marketing mi ha fatto vedere una roba che abbiamo scritto nel 2007, mi piace dirlo, tra le ragioni di quel tipo di acquisizione e decisioni c'era la previsione che sarebbe nato un movimento di coscienza, di consapevolezza popolare che avrebbe portato appunto la consapevolezza della importanza dell'italianità. Oggi Generale Conserve è la seconda azienda nel mercato italiano dei prodotti ittici confezionati e al primo posto per produzione di tonno da intero. Il segmento più importante della produzione è rappresentato dal tonno. Il fatturato netto nel 2012 è stato di circa 151 milioni di euro e i dipendenti sono 500. E di recente, poco più di un mese fa, c'è stata l'acquisizione da Bolton Alimentari di Manzotin, il secondo player sul mercato italiano nella produzione e commercializzazione di carne in gelatina, con un budget 2013 pari a circa 19 milioni di euro di fatturato netto. Le previsioni di fatturato di Generale Conserve per il 2013 sono a questo punto intorno ai 200 milioni di euro. Vito Gulli investe e crede nello sviluppo del suo settore d'impresa. Non è ottimista sull'andamento della crisi, ma lo è sul futuro. Premesso che abbiamo tanto parlato bene della mia azienda, io non sto dicendo che la mia azienda è ricca, la mia azienda cresce. Dopodiché io ho previsto una crisi mostruosa. Temo, lasciatemelo dire, che non siamo assolutamente arrivati dove purtroppo ancora arriveremo. Dopodiché però ci si risolleverà sicuramente, ma non perché io sono un ottimista, ma perché l'uomo è l'ottimista, perché è l'istinto di sopravvivenza che ci porta a fare le scelte giuste. Non c'è dubbio che, io ripeto, io credo nella natura e nell'uomo nel senso di cervello. da sole fanno tutto queste due cose, fanno tutto senza che facciamo niente noi. L'ingegno, il cervello va avanti, la natura ci pensa da sola e go on, go on, go on. E anche la sostenibilità, tema su cui oggi più che mai si dibatte nel settore del cibo, è un obbligo per il futuro, per una questione di sopravvivenza che riguarda prima di tutto le aziende. Va fatto per sopravvivenza, non per scelta, per sopravvivenza. Odio quello stile aziendale che si preoccupa di fare piani di medio-lungo termine di 5 anni, 10 anni, in cui ci sono paginate di numeri, di dati, di cose, di informazioni, ma non c'è un pensiero nella certezza del mantenimento della propria materia prima, così come del proprio consumatore. Quindi nel nostro mercato non pensare a far di tutto per essere sicuri che continui ad esserci il pesce, che si sa soffre di questi problemi come tante altre specie e tante altre cose della nostra meravigliosa natura, non è da imprenditori, non è da manager, è da miopi, ok? Poi però se ne parla molto, cioè è una parola come tante altre in Italia oggi di cui si abusa tanto, secondo me è diventata moda. E questo è il rischio e il pericolo. Sia chiaro, anche quelli che fanno poco e dicono molto, ben vengano, eh? Rispetto a quelli che non fanno niente, addirittura fanno peggio, no? E per chiudere, tornando al tema iniziale, quello che secondo Vito Gulli avvicina gli imprenditori italiani a Novelli Ulisse è proprio il tema del ritorno. Tornare, in questo caso, non ad Itaca, ma in Italia. Mentre ne parliamo, rendersi conto quanto Ulisse rappresenti lo stereotipo dell'imprenditore ideale, è vero, no? Cioè andare, capire altre culture, assimilarne il bene e non il male, essere capaci, questo distingue un imprenditore buono da un altro. Io la crisi italiana sono troppo fissato della mia visione e ritorno sempre lì. Allora, la crisi è mondiale e non c'è dubbio, è di carattere finanziario e non c'è dubbio. Noi soffriamo più di chiunque altro che Grecia. Perché sentiamo dire una roba che ne nasconde un'altra, noi sentiamo dire che siamo il secondo paese manifatturiero, ma eravamo il primo paese manifatturiero, perché ce lo dimentichiamo? Siamo stati il primo paese manifatturiero d'Europa. È chiaro che soffre di più chi cade da più in alto, no? Quindi la crisi fa soffrire di più noi che avevamo tante aziende ed ecco qui la mia fissazione, sono scappate. La colpa, lo dico così chiaramente, è di chi scappa, è di chi chiude le fabbriche. 60 milioni di persone non possono vivere di servizi. Quindi dobbiamo dare lavoro, ma impresa, non è il mio, non è un discorso politico, è per fare impresa. Chiudiamo questa puntata speciale di Voci d'Impresa, realizzata in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano nel ciclo Gli Ulissi. Avete ascoltato Voci d'Impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.